Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche di borse, il calo adesso dell'1,70% su Milano, dell'1,60% su Francoforte, dello 0,70% su Parigi, dello 0,50% su Londra. Quindi oltre a Francoforte l'altra borsa decisamente negativa è Milano. Che cosa è successo su Milano? Beh, c'è la vicenda Monte dei Paschi di Siena, perde il 9,5% il titolo adesso, dopo che proprio sul Sole 24 Ore, lo trovate oggi nell'apertura della pagina di Finanze e Mercati, viene ventilata l'ipotesi di un aumento non più da 3 miliardi, ma da 5 miliardi, aumento di capitale. È chiaro che il titolo a quel punto ne risente in maniera negativa, e più che negativa visto che siamo a 22 centesimi di euro, 22,70 per la precisione, ma vanno male anche altri titoli. Devo dire, visto che sarà uno dei temi di questo programma, ossia le nomine nelle partecipate dello Stato, va particolarmente male Finmeccanica, meno 4,80%. A giudicare da quelli che sono i commenti degli operatori, l'effetto non è tanto sul nome di Moretti al posto di Pansa. Faccio notare che Moretti ha ben operato nel risanare le ferrovie dello Stato, e Pansa, anche se era operativo come storegato da un anno, si era ben mosso in varie vicende. No, il timore è che rallenti tutto il processo di cessione di Ansaldo STS e Ansaldo Breda, che erano due controllate, che sono due controllate di Finmeccanica, che Pansa in più di un'occasione anche da questi microfoni in questo programma aveva espressamente detto di voler cedere perché non parte del core business, dell'attività principale di Finmeccanica. Si teme che quando c'è un cambio di vertice, e giustamente chi arriva ha bisogno anche del tempo per capire, valutare i vari dossier, che questo allunghi le scadenze. Per quello che riguarda invece le altre partecipate, Terna ancora mancano i nomi, meno 1,30%, Eni è sostanzialmente invariata, 0,05%. Per quello che riguarda Enel c'è un calo del 2%, ma dicevo che al di là del Monte dei Paschi c'è anche Mediaset che perde il 6%, Finmeccanica appunto il 4,90%, Ubibanca il 4,5%, Azimut il 4%, Fiat il 3,80%, Exor meno 3,60%, Mediolanum meno 3,5%, Popolare Emilia Romagna meno 3,30%, Intesa San Paolo meno 3%, e ancora A2A meno 3 come Buzzi Unici, il 2,90 lo perde Luxottica, il 2,70 Telecom Italia, il 2,5 Mediobanca, il 2,40 Iux, il 2,30 Gtech, il 2,20 Unicredit, il 2,15% lo perdono sia appunto Enel che Autogrill, il 2% Enel Green Power e Salvatore Ferragamo. Chi va bene? Solo ST Microelectronics più 0,80 ed Eni appunto invariata. Campari, di cui parleremo perché ha acquisito l'Amaro Averna per il 100%, l'ha pagato 103 milioni di euro, quasi 104 milioni di euro, composto però da un prezzo da 98 milioni più si è accollata al debito finanziario netto che era di 5 milioni e 750 mila euro. Faccio notare che Campari, che ha un grosso bouquet di aziende, acquisisce l'Amaro Averna, che è il secondo amaro più venduto in Italia, è uno dei liquori più venduti al mondo in generale. Ricordo che poche settimane fa Campari ha acquisito anche il 100% di Forty Creek Distillery, azienda leader nei distillati in Canada, per 120 milioni di euro. Ha già i marchi Aperol, Appleton, Cinzano, Sky Vodka, Wild Turkey e quant'altro, e fattura 1 miliardo e 520 milioni di euro. E questo comunque è una buona notizia, perché noi siamo sempre a favore anche del consolidamento dei gruppi italiani. Andando con le altre notizie, parleremo appunto delle nomine nelle società partecipate, anche delle audizioni a partire da quella della Banca d'Italia oggi, che si sono tenute sul DEF, quindi sul documento economico finanziario presentato dal governo la settimana scorsa, audizione sia del presidente dell'Istat Antonio Golini che del governatore della banca, anzi vice direttore oggi della Banca d'Italia Signorini, in audizione appunto al Parlamento, la Corte dei Conti pure. Ascolteremo rapidamente i vari interventi e poi questa sera, se ho ben visto, alle 8 verso le 20:30 ci dovrebbe essere l'audizione del ministro all'economia Padoan. Ancora per quello che riguarda le vicende, parleremo anche del Monte dei Paschi e di Campari. C'è una notizia degli ultimi minuti, ossia che la Confindustria Sicilia ha deciso di schierarsi come parte civile nei confronti delle banche. Ancora un flash di agenzia, vi daremo maggiori aggiornamenti nel corso del programma. Come sempre 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Della borsa, adesso arriveremo, anche perché oggi obiettivamente c'è uno spread italiano a 160 punti, quindi basso, e che porta il tasso dei BTP a 10 anni al 3,11%, è un nuovo minimo, per cui da questo punto di vista non si giustifica il calo delle banche con l'andamento degli spread e dei rendimenti sul debito pubblico. Per quello che riguarda invece la vicenda che coinvolge Confindustria Sicilia, adesso è uscita anche l'altra agenzia. Allora, ricorderete che già Confindustria Sicilia, sotto la guida allora di Ivanoe Lobello, fece la famosa iniziativa anti-racket, cioè l'espulsione di tutti gli imprenditori accusati di pagare il pizzo. Adesso c'è una nuova iniziativa, il presidente di Confindustria Sicilia attualmente è Antonello Montante. Confindustria Sicilia si costituirà parte civile nei processi intentati dalle imprese che si sentono vessate dalle banche per via del mancato accesso al credito pur avendone i requisiti. È un'iniziativa unica, è la prima che io ricordi, molto importante, perché non si tratta di da quello che capiamo di schierarsi con le imprese in generale, ma solo con quelle che si sentono vessate dalle banche perché non riescono a ottenere un credito pur avendo i requisiti. Va benissimo l'iniziativa, mi chiedo se non ci possa essere anche un'iniziativa più complessiva del governo stesso di moral suasion nei confronti delle banche. Sappiamo tutti che le banche hanno da accantonare miliardi e devono fare aumenti di capitale, però cioè, allora diciamocelo, troviamo un'altra formula, non lo so, altri modi di garanzia, perché è inutile continuare da questo punto di vista a prendersi in giro. Poi ogni volta che ne parliamo i numeri uno delle banche ci dicono che i prestiti sono aumentati, è vero in termini assoluti, bisogna capire poi a chi sono andati, perché sai, se sei un grande gruppo ho capito che hai avuto maggiori linee di credito, ma qui il problema è sui piccoli e medi imprenditori, artigiani e commercianti. Allora, dicevamo dell'audizione sul documento economico finanziario, quello che prevede il taglio del cuneo fiscale, gli 80 euro famosi a maggio, la rivalutazione delle aliquote sulle banche dal 12 al 24%, 4 miliardi e mezzo di tagli dalla spending review, di cui 1 miliardo alla sanità, 600 milioni di euro dalla difesa, e poi la tassazione delle rendite finanziarie che dal prossimo luglio salirà dal 20 al 26%, esclusa però i titoli di Stato. Allora, su questo e sulle previsioni economiche diffuse anche dal DEF, oggi è intervenuto il presidente dell'Istat, Antonio Golini, audizione al Parlamento, ha detto: attenzione, dal 2008 ad oggi si sono persi 1 milione di occupati, però il calo è stato del 9% al sud e del 2,4% al nord. Complessivamente dal 2008 al 2013 la perdita è stata di quasi 1 milione di occupati e le differenze territoriali sul mercato del lavoro si sono ulteriormente accentuate. Rispetto al 2008, nel mezzogiorno gli occupati sono diminuiti del 9% contro il 2,4% del nord. nel 2013, prosegue il calo dell'occupazione maschile e torna a ridursi quella femminile. La discesa del numero degli occupati riguarda le persone fino a 49 anni, meno 717.000, cui si contrappone la crescita degli occupati con almeno 50 anni, a seguito della permanenza nell'occupazione indotta dall'inasprimento dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione. Mamma che allegria! Allora andiamo avanti invece sull'impatto della riduzione dell'IRPEF e dell'IRAP. Stima l'Istat il guadagno medio annuo per un lavoratore dipendente e per le famiglie più povere, quindi come già il Sole ha calcolato in quella tabella, il guadagno più grosso si ha per chi dichiara fino a 25.000 euro lordi, in realtà soprattutto nella fascia diciamo 22-25.000 euro lordi, sarà di 714 euro. E poi lo sconto va via via a scendere fino a 451 euro per le famiglie più ricche. Il beneficio dell'IRAP, ridotto del 10%, varrà per 620.000 imprese, quindi 2 su 3. Il beneficio relativo della revisione IRPEF, misurato come minore imposta in rapporto al reddito della famiglia di appartenenza dei beneficiari, passa dal 3,4% il beneficio relativo per il quinto di reddito più povero allo 0,7% del quinto di reddito più ricco. In valore assoluto, il guadagno medio annuo per beneficiario è pari a 714 euro per le famiglie più povere del primo quinto, 796 per le famiglie del secondo, 768 per le famiglie del terzo, 696 per quello del quarto e 451 per le famiglie più ricche. La riduzione dell'IRAP, misurata sulle società di capitali, responsabili di circa il 60% dell'imposta complessiva versata dalle imprese, ammonta complessivamente a circa 1,4 miliardi di euro, pari al 10% dell'imposta dichiarata a legislazione vigente. L'elevata presenza di imprese con base imponibile negativa o nulla a fini IRAP restringe la platea degli interessati al provvedimento. I beneficiari sono percentualmente più numerosi tra le imprese medio-grandi, quelle che operano nel settore manifatturiero, le imprese relative residenti nel nord-ovest e le imprese in gruppo nazionale ed estero. Al contrario, l'incidenza percentuale dello sgravio si distribuisce abbastanza uniformemente per settore interessato, per dimensione di impresa, per area geografica e struttura proprietaria. Queste le stime quindi dell'Istat di chi beneficerà della riduzione dell'IRPEF, 714 euro, attenzione a chi mi dice, perché parte da maggio, per cui il calcolo va fatto da maggio, dopodiché saranno a regime all'anno 80 euro al mese, l'abbiamo già spiegato altre volte, e il beneficio dell'IRAP. Ancora sulla fiducia delle famiglie, dice l'Istat, arrivano segnali univoci, le famiglie sono più ottimiste. Io dico al Presidente, avremo sfiga noi che abbiamo tutti quelli che invece si lamentano e denunciano una situazione ancora difficile. La Banca d'Italia dice contro la disoccupazione occorre una crescita robusta, e fin qua siamo diciamo all'Accademia, lo dico con massimo rispetto al vice direttore di Banca d'Italia Luigi Federico Signorini. E invece per quello che riguarda la spesa, dice i risparmi di spesa indicati come valore massimo ottenibile dalla spending review non sarebbero sufficienti da soli a conseguire gli obiettivi programmatici qualora dovessero finanziare lo sgravio dell'IRPEF, evitare l'aumento di entrate appena menzionate e dare anche copertura agli esborsi connessi con programmi esistenti non inclusi nella legislazione vigente. Ora, se qualcuno ha capito, cerco di tradurre. Dice che nel 2015 i tagli che arriveranno dalla spending review come a livello massimo, e quindi nella versione più ottimistica, non sarebbero comunque sufficienti a coprire le iniziative del governo se dovessero finanziare tutta la riduzione del cuneo fiscale ed evitare però l'aumento di nuove tasse e dare però anche copertura a esborsi con, di programmi esistenti non ancora, diciamo, inclusi in questa, nel DEF e nella legislatura vigente. Sentiamo questo passaggio che la dice lunga come, diciamo, la chiarezza comunicativa forse non sia proprio di tutti. Il quadro tendenziale prevede una sostanziale stabilità delle entrate in rapporto al prodotto nel 2014 e 2015, una lieve flessione negli anni successivi. Al termine dell'orizzonte di previsione le entrate scenderebbero al 47,3% del PIL. Queste valutazioni includono interventi non specificati di aumento delle entrate, rispettivamente per 3, 7, 10 miliardi nei prossimi tre anni, da adottare se la revisione della spesa non desse risultati sufficienti, interventi da definire come specificato la legge di stabilità per il 2014 a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri come clausole salvaguardia per il rispetto degli obiettivi. Nel complesso l'analisi delle stime tendenziali suggerisce che nel 2015 i risparmi di spesa indicati come valore massimo ottenibile della spending review non sarebbero sufficienti da soli a conseguire gli obiettivi programmatici se dovessero finanziare lo sgravio dell'IRPEF, evitare l'aumento delle entrate che ho appena menzionato e dare anche copertura agli esborsi connessi con i programmi esistenti non inclusi nella legislazione vigente, quelli di cui ho parlato poco fa. E meno male che ne aveva parlato, vedo il tecnico molto sorpreso sull'esegesi di questo intervento di Signorini. Allora, continuate a scrivermi al 349-238-6666 per avere un'opinione sulle nomine. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Dico solo una cosa che non c'entra nulla con i nomi in sé, nel senso che De Scalzi è chiaramente una scelta per l'ENI di continuità interna. L'ENI, oltre che essere il primo gruppo italiano, fa politica estera per questo paese, è un'azienda delicatissima, occorre avere le competenze, quindi mi sembra che su questo ci siano poche critiche. Benissimo anche le donne, Emma Marcegaglia, Luisa Todini, la Grieco. Bene, una cosa la voglio dire però ai miei colleghi giornalisti, non riguarda quindi le nomine. È abbastanza insopportabile però vedere che tutti i giornali oggi titolano tre donne alla presidenza, tre donne, ma che è sta corsa sul carro di Renzi? Col massimo rispetto, perché i tre profili sono di altissimo livello, e appunto Marcegaglia, Todini e Grieco, sappiamo tutti che la presidenza di questi gruppi è, diciamo, un elemento formale di rappresentanza, non ci sono deleghe a lei nella presidenza. Allora va benissimo il plauso alle donne, però non facciamo di questi cliché, siccome è donna va sempre bene. La presidente ha un ruolo di rappresentanza istituzionale, ma non ha nessuna delega operativa. Ecco, vedere che non c'è neanche un'analisi critica su quasi nessun giornale, tutti che bravo Renzi perché ha messo tre donne, mi sembra anche umiliante, lo dico con massimo rispetto, per le donne stesse, perché adesso cos'è? Sicuramente tre donne presidenti sei il nuovo mito. E diceva Flaiano che gli italiani corrono in soccorso e aiuto dei vincitori. Ecco, mi sembra che un po' ci siamo su questo, se posso con massimo rispetto girare questa critica ai giornali e alla mia categoria. Vabbè, sentiamo la Corte dei Conti. Bisogna dare attuazione concreta agli interventi in grado di riattivare la crescita con rapidità ed efficacia. Rappresenta questa una necessità immediata per offrire risposte al Paese ed è una sfida che rischia di essere senza prove d'appello. Hai capito? Dare attuazione concreta agli interventi in grado di riattivare la crescita con rapidità e efficacia rappresenta una necessità immediata per offrire risposte al Paese ed è una sfida che rischia di essere senza prove di appello. C'è maggior ragione se, come rilevato in precedenza e come scaturisce dal quadro di finanza pubblica di consenso, i risultati, a fronte di una crescita più lenta e di un trascinamento dal 2013 delle distorsioni evidenziate sul fronte delle entrate, si dovessero presentare meno positivi di quanto previsto dal Governo. Allora, io ve le faccio sentire queste audizioni, perché poi bisogna anche sentire cosa dicono. C'è qualcuno che evoca il Conte Mascetti. Nel senso che Cioè, sono audizioni che assomigliano, lo dico anche qui con massimo rispetto per la Corte dei Conti, per la Banca d'Italia, per l'Istat, assomigliano un po' delle messe cantate. Cioè, ho capito, la sfida della crescita è una sfida senza prove d'appello, occorre dare attuazione concreta agli interventi in grado di riattivare la crescita, e chi potrebbe dire il contrario? Insomma, dai. Fatemi stare zitto oggi, siamo tra il Conte Mancetti e Catalano, ok? Allora, detto questo, l'ABI, visto che ricordavamo la notizia che è arrivata all'inizio del programma della Confindustria Sicilia, che si schiera come parte civile con gli imprenditori che non hanno ottenuto un accesso al credito dalle banche pur avendone i requisiti, oggi l'ABI fa notare però che continua la corsa delle sofferenze bancarie, cioè i crediti che le banche hanno concesso non riescono più a riottenere. 162 miliardi più 27% delle sofferenze bancarie a febbraio rispetto a un anno prima. Siamo a un rapporto sugli impieghi pari al 98. Frena la caduta dei prestiti, ma continua a cadere, cioè, ossia rallenta il calo dei prestiti, ma siamo a un meno 3,2%. Gli impieghi sono saliti di 2 miliardi di euro rispetto al mese precedente. E siamo in tema di banche, la borsa ha chiuso, quindi possiamo parlarne anche noi. Bella la chiusura del Monte dei Paschi, meno 10,52%. La colpa e la responsabilità, non dico civile e penale, ma sicuramente giornalistica, è di due colleghi del Sole 24 Ore, Marco Ferrando e Carlo Festa. Ne abbiamo preso uno dei due, e come diceva Mao, per educarne 100. Marco Ferrando, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la colpa è una battuta, chiaramente, però che in l'apertura della della pagina di finanza del Sole 24 Ore di Finanza e Mercati di oggi recita: Monte dei Paschi, ipotesi di aumento di capitale da 5 miliardi di euro, e di questo parliamo perché, se in regia mi seguono, vorrei iniziare col tema del Monte dei Paschi. La borsa va a vendere e vende di brutto, meno 10,50% oggi, il titolo è sceso a 22 centesimi e 45 di euro, insomma una botta così non si vedeva da tempo, perché l'aumento di capitale, Marco Ferrando, doveva essere di dimensioni ben più contenute, si era sempre parlato, se non ricordo male, di 3 miliardi, che cosa avete scoperto? Si è parlato, e diciamo che c'è anche una delibera che impegna il Consiglio di Amministrazione a fare un aumento da 3 miliardi, quindi fino, diciamo, ad oggi si sapeva e si sa che ufficialmente che appunto Montepaschi si appresta a fare questo aumento che è già molto grande, da 3 miliardi. In realtà la notizia che abbiamo dato oggi e non smentita, anzi confermata in mattinata dalla banca, è che si sta ragionando sulla possibilità di elevarlo, e di elevarlo molto, addirittura di arrivare fino a 5 miliardi, quindi quasi raddoppiarlo. È evidente che più è grande l'aumento, più sarà sconto, più si rimescoleranno le carte nell'azionariato, e quindi evidentemente il titolo perde e ha perso il 10%. Tra l'altro noi avevamo intervistato il presidente Profumo una decina di giorni fa e avevamo anche fatto una domanda su questo, lui non aveva risposto, e quindi, se vogliamo, anche questo forse poteva essere stato un indizio. Sì, su questo non abbiamo avuto smentite, ma il motivo per cui, dopo che la Fondazione Monte dei Paschi, ricordiamo, dopo un braccio di ferro con Profumo e Viola, va dato atto, l'abbiamo detto anche in diretta, Antonella Mansi, la Presidente della Fondazione Monte dei Paschi, di aver avuto ragione, ha trovato i compratori, è scesa al 3% del capitale, se non ricordo male, e quindi ha ceduto le sue quote. Perché adesso un aumento di capitale dovrebbe quasi raddoppiare, perché sono 3 miliardi a 5, non è poca cosa, Dunque, diciamo che con la fondazione ridimensionata cade evidentemente anche il potere di veto, quindi diciamo che il management in questo caso pensa di avere, perché poi evidentemente la prova dei conti sarà in assemblea, pensa di avere mano libera sulla possibilità di ampliare la portata dell'operazione. I motivi quali sono? Sono anzitutto i Monti Bond. Ricordiamo che Montepaschi ha in pancia 4 miliardi di Monti Bond, che è un prestito statale a condizioni molto salate, ne ha in pancia 4 miliardi. Ecco, fai bene a ricordarlo, perché molti scrivono ancora il regalo che abbiamo fatto a Montepaschi. No, attenzione, tutto si può dire. Sicuramente senza quei 4 miliardi di soldi degli italiani Montepaschi non arrivava a Natale e non passava la nottata. Però attenzione che quello che costano al Monte dei Paschi questi 4 miliardi sono un vantaggio per i contribuenti, per lo Stato, perché il rendimento è bello alto. Il rendimento è bello alto e infatti il Monte non vede l'ora di poterli rimborsare. E appunto uno dei motivi per cui ci potrebbe essere questo aumento extra large è proprio la possibilità di rimborsarli tutti, risparmiando centinaia di milioni di interessi che diversamente dovrebbe pagare ogni anno. Prima cosa. Seconda cosa, motivo per aumentare l'aumento è quello di sono gli esami in corso in tutte le banche europee da parte della BCE. Sappiamo, si va verso unione bancaria da novembre. In questo momento tutte le grandi banche europee, compreso ovviamente Montepaschi, sono sotto esame. Alla fine potrebbero esserci requisiti di, potrebbe essere richiesto un rafforzamento patrimoniale, e in questo caso prevenire meglio che curare, per di più in un momento in cui i mercati sembrano guardare con interesse le banche italiane. Oggi, ieri, pensare di poter piazzare un aumento dei 5 miliardi sarebbe stato un sogno. È la mia ultima domanda per te, perché io capisco tutto, ma forte della mia ignoranza sul tema, diciamo così, adesso passare da 3 a 5 significa aggiungere 2 miliardi, che è l'equivalente di un paio di aumenti di capitale di banche di grosse dimensioni in questo paese, penso a Banco Popolare, ma non solo. Ora, sono così tranquilli a Monte dei Paschi che anche se da 3 ne chiedono 5 di miliardi, troveranno chi viene a darglieli? Ma la sensazione è evidentemente questa, perché c'è un consorzio di garanzia già di cui la banca già disponeva per l'aumento da 3 miliardi. I colloqui in queste settimane, in questi giorni anzi, sembrano andare nella direzione della sostenibilità di un aumento da 5 miliardi. Peraltro non dimentichiamo che oggi MPS, almeno ieri, adesso oggi non ho visto il dato aggiornato, capitalizzava in borsa meno di 3 miliardi. Questo vuol dire che di fatto va a diluire più della metà gli attuali azionisti. Quindi insomma, questo dà l'idea della portata dell'operazione. Cioè chi ha un'azione e dopo l'aumento di capitale se ne trova la metà, diciamo. Sì, chi ha l'1% dopo l'aumento avrà lo 0,4, certo. Insomma, e quindi è una bella fondazione, bella botta. Se non dovesse partecipare arriverebbe l'1,5. La fondazione arriverebbe l'1,5, sì. È vero che effettivamente con la cessione e con i compratori che ha trovato i sudamericani, in cassa un po' di soldi ci sono, quindi volendo può partecipare e mantenere la sua è quota. Una delle cose che vorremmo sapere nei prossimi giorni, cosa farà la fondazione. Allora, non avete ricevuto smentite, non ho visto mai le agenzie. Anzi, questa mattina Consob ha chiesto chiaramente alla banca e la banca ha effettivamente confermato che ragionamenti sono in corso. E come avete fatto a saperlo? Beh, diciamo che la voce circolava, ieri sera anche sono uscite delle agenzie che lasciavano intendere che si andava forse in questa direzione. Indubbiamente il fatto che quando la fondazione si è messa in sicurezza, ha messo in sicurezza se stessa appunto e di fatto l'aumento di capitale, visto che da tempo si diceva che questo aumento forse era un po' come dire da minimo sindacale, si è iniziato a ragionare su questa ipotesi. Non dimentichiamo che qualche giorno fa anche Davide Serra, che conosce bene il mondo senese, lui stesso aveva detto 3 miliardi non bastano, quindi come dire in molti ragionavano avete su questa ipotesi. 2 più 2, magari avete avuto qualche fonte. Esatto, sicuramente. E chi? Adesso questo non si può dire ovviamente, Sebastiano, però possiamo dire che mezzo mondo è al lavoro su Montepaschi, quindi insomma c'è ampia scelta. Grazie Marco Ferrando e complimenti anche a Carlo Festa, complimenti professionali si intende. Adesso il metodo, la pubblicità, e poi vediamo di capire, anche se non c'è molto da capire, quando aumenta un aumento di capitale e va a diluire le quote, era abbastanza ovvia la reazione del mercato, forse non così forte, ma ovvio e prevedibile il calo. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di tornare sul Monte dei Paschi e di arrivare alla borsa, saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. Buonasera. Buonasera a voi. E so che lei ci deve lasciare tra pochissimo perché sta per decollare, non vorremmo insomma. Sì, allora, mi dica solo una cosa: poco fa è uscita l'agenzia che dice che la Confindustria Sicilia si costituirà parte civile nei processi intentati dalle imprese che si sentono vessate dalle banche per via del mancato accesso al credito pur avendo i requisiti. e poi un attacco anche alla regione. Ma che cosa è successo, Montante? Perché questo potrebbe essere un caso che poi viene seguito anche da altre Confindustrie regionali. Sì, ma nessuna contropposizione col sistema bancario, le banche rimangono sempre nostri partner, non ci sono dubbi. Praticamente da una consultazione alla base associativa siciliana esce fuori che l'80% delle imprese ha problemi o problematiche legate al sistema creditizio e ai rapporti con le banche. Quindi Confindustria Sicilia si è dotata, si è organizzata con un ufficio legale di diritto specializzato in diritto bancario, dove assisterà tutte quelle imprese che pensano di essere vessate dalle banche. Naturalmente sarà analizzato caso per caso e sono quelle imprese che hanno mercato e vivono di impresa sana. Ecco. Quindi voi andrete con uno studio legale a valutare se alla luce delle condizioni di questa impresa non fosse giustificato il mancato credito bancario, capito bene? Non c'è dubbio, quindi daremo un servizio in più ai nostri associati in qualche maniera e se caso impegneremo in qualche giudizio, però naturalmente prima servirà un confronto continuo con la banca nel rispetto totale del rapporto cliente-fornitore. Quindi solo in una seconda fase voi andreste ad affiancarli come parte civile in un eventuale ricorso? Il dubbio, se è palesemente dimostrato che c'è stata una distrazione, un qualcosa che non ha funzionato, aiuteremo l'impresa, l'imprenditore, diciamo, nelle sedi opportune. Quindi se la banca non retrocede, diciamo, dal suo atteggiamento, voi aiuterete l'imprenditore. E lei ritiene che questa iniziativa debba essere presa anche da altre organizzazioni di Confindustria su base regionale? Ma diciamo, questa è una scelta di Confindustria, lei sa che Confindustria fa sempre scelte oculate, ma attenta a sostegno dell'impresa locale e in qualche maniera salvaguarda il tessuto che è molto debole, cioè il nostro. Se noi ci distraiamo e facciamo fallire le imprese che hanno anche ancora commesse è disastro totale. Quindi dovevamo per forza attuare un sistema innovativo, di dare un servizio in più, ma naturalmente come dicevo, nessuna contropposizione con la banca, anzi c'è un confronto più forte per far notare le cose che non vanno. Mi dica l'ultima cosa, Presidente Montante, lei ha anche attaccato duramente la regione, ha detto una regione che non paga i debiti, immagino quelli della pubblica amministrazione verso le imprese siciliane, non è credibile, se ci saranno altri rinvii, se ne assumono la responsabilità, meglio andare alle elezioni se continua così. Quindi mi dica. Non c'è dubbio, nel senso che i debiti comunque si devono pagare a livello nazionale o a livello locale. I debiti bisogna pensarci prima dell'attuazione della spesa. Quando il capitolo è messo a parte, bisogna utilizzarlo per pagare quel debito preventivamente messo in moto. Ecco, quindi non c'è la discussione in Parlamento, non c'è essere discussione all'asse nel caso della Regione Sicilia, ma si devono pagare immediatamente, senza discussione. La lascio decollare, Montante, grazie. Volevamo capire mille, il senso dell'iniziativa. Grazie al Presidente buonasera. Confindustria Sicilia, Antonello Montante. Allora vi dico già che questa iniziativa farà discutere, che probabilmente molti imprenditori aderenti a Confindustria di altre regioni chiederanno la stessa cosa. Che chi mi scrive l'osservatorio sul credito della prefettura non basta, dai, stiamo scherzando, quella fu una cavolata pazzesca, i prefetti chi fu Tremonti, se non ricordo male, i prefetti che andavano a osservare l'eventuale credit crunch, ma che ne sa un prefetto di banca, magari quello della Basilicata un po' di più forse, viste le notizie, ma insomma non è questo il punto. C'è qualcuno che mi dice invece, guardate che le banche sono aziende private che sono libere di scegliere a chi affidare i soldi. Sì, ci mancherebbe, però attenzione su questa storia delle banche come imprese private, dobbiamo capirci, perché quando fa comodo le banche diventano imprese private, quando invece fa comodo un'altra cosa si dice che le banche non possono fallire, e infatti non possono fallire, i prestiti sono garantiti fino a 100.000 euro e non si è mai vista una banca fallire se non Lehman, ma non era una banca, diciamo, di quelli di cui stiamo parlando. Allora, è vero che sei impresa privata, ma è anche vero che per l'interesse sistemico e il peso sistemico che hai, tu, a differenza di tutte le imprese private, non puoi fallire. Quindi capiamoci su questo, no? Non giochiamo sempre sulla parte che siamo imprese private. Cosa voglio dire? Voglio dire che così come si tutela il risparmio, tant'è che la banca non può mai fallire, allo stesso modo la banca ha una missione forte sull'impiego del risparmio, non può, diciamo, dirmi io non posso fallire e tutti i risparmi che raccolgo li metto in botto, li metto in prodotti di altro genere. No, mi fai il sacrosanto piacere di reinvestirli sul territorio, se no non si capisce perché io ti devo tutelare da un punto di vista sistemico. Perché siamo d'accordo, sei sistemica, gestisci risparmi, non sei un'impresa normale. E allora però ci può essere anche una moral suasion, un indirizzo. Dopodiché vedremo come andrà a finire questa vicenda, vedremo quante volte la Confindustria Sicilia diventerà parte civile in eventuali ricorsi di fronte al giudice per prestiti non concessi. Faccio solo notare che in questo momento c'è un ufficio legale, come ha spiegato Montanti, che andrà a valutare la correttezza nel non aver affidato un prestito a un imprenditore che riteneva invece di avere tutti i requisiti contabili e aziendali corretti. Di questo stiamo parlando, non di dare i soldi a chi va lì e li chiede magari per pagare i fornitori o per pagare gli stipendi. Sappiamo benissimo che c'è anche questo e fa bene la banca non darli in questi casi. C'è chi deve essere un bancario, forse un banchiere più che un bancario, che continua a scrivermi, lei dà sempre la colpa alle banche. No, abbiamo solo detto basta con questa ipocrisia che quando fa comodo la banca non può, non deve fallire perché ha un ruolo sistemico per l'economia e per il paese, giusto, però allora non diciamo che è un'impresa privata come le altre, visto che stiamo raccontando da 5 anni migliaia di fallimenti di imprese artigiane, manifatturiere, dei servizi, del commercio. Allora, no, sappiamo che non potete fallire, rendetevene conto, siete un'impresa un po' diversa e quindi è anche giusto dire scusa un secondo, cosa stai facendo dei risparmi che stai raccogliendo? Se il problema sono le sofferenze che schiacciano tutti i bilanci bancari, facciamo una bella operazione di trasparenza, gli amministratori delegati delle banche italiane vengono a chiarire questa cosa, dicono noi non riusciamo a prestare, perché molti mi scrivono direttori di banca, di filiale e dipendenti che non prestano, non vengono prestati i soldi neanche a chi ha disponibilità. Ok, allora una bella operazione di trasparenza, non abbiamo i soldi da prestare perché siamo schiacciati dalle sofferenze e dai crediti inesigibili, tra cui anche simpatici casi che si chiamano Sorgenia, che si chiamano Fondieri Assai, che si chiamavano Don Verzè e quindi San Raffaele di Milano. Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, Monte dei Paschi, insomma, mi sembra la reazione è netta, abbiamo parlato a lungo con Marco Ferrando dell'aumento di capitale da 5 miliardi invece che da 3 miliardi. Altri titoli però, perché oggi la botta al di là del Monte dei Paschi la prende anche media, 7-6-10%, e alcuni bancari, UbiBank -4,80%, Pop Emilia Romagna -4,70%, Intesa -4%, Azimut -4,30%. Eleonora. Le banche sono andate tutte male, l'unica che aveva tentato nel primo pomeriggio di rialzare la testa era stata BPM, che comunque ha chiuso con un calo del 2,7%, ma solo perché ieri poi ricordiamo che era andata malissimo e oggi poi aveva tentato di rialzare la testa, visto che si riunisce il consiglio di gestione, magari usciranno delle novità. Poi tutte le banche in generale, come hai detto tu, sono andate male, MPS peggio per la notizia sull'aumento di capitale. È sempre lo stesso discorso che facevamo nei giorni scorsi, ovviamente si è deciso di portare a casa i guadagni e di sposare un atteggiamento prudente, si vanno a vendere i titoli che hanno corso di più nelle ultime settimane da inizio anno. Ricordiamo comunque da inizio anno il FTSE MIB, l'indice di Milano, vanta la performance migliore d'Europa, un rialzo del 9,9% rispetto ai valori di fine 2013. Sì, ha ragione un ascoltatore che dice hai dimenticato Zaleschi, è vero, anche Zaleschi, ma lì è un problema più di saper giocare a bridge, che altro, insomma, per favore, perché non si capisce perché poi per alcuni personaggi il credito venga sempre erogato anche negli ultimi anni, non sto parlando di 10 anni fa. Per favore su questo, dopodiché nessuno chiede che le banche prestino i soldi degli italiani senza una sana e prudente e oculata gestione, non abbiamo mai chiesto questo. Andiamo avanti invece, al di là delle banche, Mediaset, che succede? -6,1%. Mediaset anche in questo caso abbiamo detto che è un po' le prese di beneficio, i titoli avevano corso molto, appunto si va a prendere profitto sui titoli che danno maggiore possibilità di guadagno in un momento in cui si è deciso evidentemente che probabilmente è iniziata un po' di correzione del mercato e quindi si cerca di portare a casa i guadagni realizzati magari anche semplicemente da inizio anno. Ancora, adesso parleremo di Campari direttamente con il numero uno della Campari, il titolo oggi è comunque poco mosso. Invece, tra i titoli che hanno cercato un recupero c'è sicuramente Steam Microelectronics, era scesa molto nei giorni precedenti, più 0,30%. Complessivamente una borsa così debole, alla fine Milano, è vero che c'è il Monte dei Paschi di mezzo, perde il 2,33%, ma Francoforte anche, perde l'1,80%, come mai? Come mai? Quello che dicevo prima, cioè che Piazza Affari è stata la peggiore d'Europa oggi, d'altra parte vanta il progresso maggiore da inizio anno, che è pari al 9,9%, quindi ovviamente era il mercato che da inizio anno aveva vantato la performance migliore e oggi subisce le peggiori conseguenze. Bisogna vedere se in verità si tratta di una pausa di riflessione, magari in vista anche dei ponti pasquali, e spesso questo avviene prima delle vacanze o prima dei ponti, o piuttosto se si tratta di un vero e proprio movimento di correzione. Peraltro anche in America sta succedendo un po' la stessa cosa, ma ricordiamo che soprattutto l'S&P ultimamente ci regalava un record dietro l'altro e da qualche giorno è iniziato un movimento di correzione. Ancora Telecom, domani c'è l'assemblea della sì. Telecom Novella, prego, meno 3%. Domani c'è l'assemblea, oggi i titoli hanno perso il 3%, c'è grande attesa, sembra che ci sia un'affluenza record come all'assemblea dello scorso dicembre, presente oltre il 50% del capitale, quindi vedremo le novità innanzitutto sull'azionariato, se ci sono dei fondi come BlackRock che ad esempio hanno aumentato la presa e vedremo poi che cosa succede in assemblea, quale sarà soprattutto il presidente, anche se sembra ormai opinione comune che Recchi domani sia nominato presidente di Telecom Italia. Poi come dicevi sì, tu perché c'è un altro presidente adesso all'ENI, per cui diciamo che è Marcegaglia, per cui Recchi, ma comunque al di là della battuta è molto probabile che sarà lui prossimo. Alessandro Recchi, il prossimo presidente di Telecom Italia. Dicevi, Eleonora? No, dicevo solo una battuta, visto che vi collegate con il presidente di Campari. Campari era andata bene fino a poco fa, il titolo festeggiava questa operazione che piaceva evidentemente al mercato, poi sul finale ha frenato dell'1%, ma solo andando dietro praticamente a Piazza Affari, che ha perso ben oltre il 2%. Chiedo venia a Giuseppe Recchi, non Alessandro Recchi, che abbiamo avuto anche ospite alcune volte in questo programma. Allora, chiudiamo con, quanto ho? 30 secondi, mamma mia, Finmeccanica meno 5,22%, qui non è tanto il nome di Moretti al posto di Pansa, se ho ben capito sono i dossier Ansaldo Brede e Ansaldo STS. Sì, perché si reputa, gli analisti e gli investitori temono che l'arrivo di Moretti possa frenare proprio sul dossier delle vendite di Ansaldo Brede e Ansaldo STS. E quindi questo ovviamente ha tolto un po' d'appeal speculativo, ha fatto precipitare le azioni di oltre il 5%. Beh, ci sarà anche un rallentamento fisiologico, Moretti dovrà arrivare a cercare di capire cosa sono i vari dossier, capire anche, lo conosce benissimo, perché ma il gruppo nella sua tecnicità in cui è finito, per cui può essere che vi sia uno slittamento nei tempi, se non addirittura un diverso orientamento di Moretti, questo ancora non è dato saperlo. Grazie Eleonora Michele. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di un'altra operazione a cui facevamo riferimento in borsa. Ogni tanto, devo dire non tanto spesso quanto vorremmo, ma possiamo anche celebrare il fatto che gruppi italiani acquisiscano marchi all'estero ma anche in Italia. La Campari infatti ha acquisito il 100% di Fratelli Averna, che è una storica azienda di Caltanissetta, produce l'Amaro Averna, ma anche è titolare del marchio Braulio, Limoncetta e Frattina. Controvalore dell'operazione 103,75 milioni di euro, ossia 98 milioni più i 5 milioni e 750 mila euro di debito finanziario netto che aveva la Fratelli Averna. Allora, Averna è il secondo amaro più venduto in Italia, è uno di quelli più venduti nel mondo e appunto ha anche altri marchi. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Bob Kunz-Koncevic, che è l'amministratore delegato di Campari. Buonasera. Buonasera. Allora, voi avete acquisito qualche settimana fa il 100% di Forty Creek Distillery, che è

continuare con il nostro destino internazionale. E di tutti i marchi che avete, qual è quello che vi sta dando il maggior successo e qual è, o quali sono quelli su cui c'è ancora margine per crescere, diciamo così? Ma noi crediamo fortissimo che nei nostri Big Six, che sono i nostri marchi principali, Campari, Aperol, Sky Vodka, Wild Turkey, Appleton e Cinzano, che tutte queste marche abbiano ancora ampio spazio per crescere. Bisogna soltanto pensare che ognuno di questi marchi fattura, fa un 70-75% del loro fatturato in 3 o 4 mercati. Questo vuol dire che chiaramente c'è del potenziale per farli crescere. Poi on top abbiamo dei marchi iconici come Frangelico, Espolon, che stanno andando moltissimo, e vorremmo concentrarci chiaramente sulle nuove acquisizioni. Grazie, in bocca al lupo. Noi siamo sempre contenti quando un gruppo italiano aumenta il suo volume e fa acquisizione. Grazie all'amministratore delegato di Campari, Bob Kunz-Koncevitz. Crepi al lupo e grazie a lei. Arrivederci. C'è il traffico, poi un commento e un'analisi delle nomine, i nuovi vertici. Ho visto molti sms sulla... Io non ho detto che non sia bello avere delle donne ai vertici, abbiamo fatto molte puntate anche sulle quote rosa, abbiamo spiegato che per quanto da un punto di vista teorico le quote rosa siano una forzatura, se non una violazione del merito, da un punto di vista pratico è dimostrato che se tu non obblighi i maschietti ad avere le quote rosa, caso Norvegia su tutti, da soli non ce la fanno. Dopodiché, appunto il caso Norvegia, una volta che le donne siedono nei consigli di amministrazione si prende atto della loro bravura e non c'è più bisogno delle quote, si arriva verso un sistema più meritocratico in cui tu puoi avere un CDA per 9 decimi composto da donne e un altro CDA magari per 9 decimi composto da uomini, in un mondo normale, corretto e veramente meritocratico. Ma come transizione le quote rosa lo dimostra la storia, servono. Ho solo detto, e la critica alla rivolta non certo a Emma Marcegaglia né a Patrizia Grieco né a Luisa Tudini, ma al modo in cui la stampa oggi copre questa notizia dicendo, dando tutto questo risalto alle 3 donne presidenti, come se questo fosse un elemento di grande discrimine. Sappiamo che i presidenti hanno un ruolo di rappresentanza molto importante, ma non hanno deleghe nel caso dell'ENI. Per cui delle volte mi è sembrato, ed era una critica diciamo alla stampa, non certo alle 3 donne, che vi fosse un eccesso di così di correre in aiuto e in soccorso a Renzi e alla sua logica. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E tu oggi hai scritto un commento importante sul Sole. Prima di andare sul traffico, poi arriviamo all'analisi. Sei d'accordo che forse, ripeto, non sulle donne, ma il modo in cui la stampa esalta queste 3 donne, ci sia stato un eccesso di così di allinearsi o, come diceva Flaiano, di correre in aiuto al carro del vincitore? Sicuramente è un aspetto diciamo laterale rispetto alla sostanza del complesso delle nomine che è stato fatto, perché certamente c'è una svolta in rosa, ma come avete ricordato giustamente voi, riguarda le presidenze, quindi riguarda delle posizioni diverse da quella della direzione operativa delle aziende, e quindi diciamo è un argomento abbastanza facile, forse anche elettoralmente conveniente in questo momento, però non è su questo che possiamo giudicare un'operazione di questo genere. E infatti dopo il traffico ci occuperemo di chi ha le deleghe operative, quindi Mauro Moretti in Finmeccanica, la cosa che ha suscitato maggiore analisi, molti non se lo aspettavano probabilmente, invece era forse più scontata la carica di amministratore delegato dell'ENI a Descalzi, che da sempre lavora nell'ENI, ed era appunto anche indicato da Scaroni, da Paolo Scaroni, e conosce benissimo il gruppo ENI. Francesco Staracci, anche questo, era tra i forti papabili, era fino a ieri amministratore delegato di Enel Green Power, e per quello che riguarda Francesco Caio alle Poste, anche quello rientrava nella rosa dei candidati.